Innanzitutto buonasera, buonasera a tutti, benvenuti. Io sono Patrick Urlu, bibliotecario, lavoro come bibliotecario alla Biblioteca Claudio Augusta e questa sera sostituisco per i saluti, per il benvenuto, la dottoressa Trevisan, che è la direttrice della biblioteca, che purtroppo ha avuto un impegno fuori ufficio improvviso. Io inizio con ringraziare il dottor Obermeier che è venuto qui e qui stasera a presentare questa sua conferenza. È stato già nostro ospite anche molte altre volte con la presentazione di libri, contributi per riviste molto importanti, contributi sempre molto interessanti. Io vi invito, ho già visto che qualcuno l'ha fatto, a dare un'occhiata ai libri che ha selezionato la collega Monica per questa sera, temi, diciamo libri inerenti chiaramente al tema della serata, quindi alla memoria, ai monumenti, soprattutto della città di Bolzano. E ricordo che i libri si possono prendere in prestito, quindi vi invito poi a dare nuovamente un'occhiata e a ritornare poi in biblioteca. La biblioteca Claudio Augusta si è trasferita nei piani, nei nuovi spazi qui sotto da settembre 2017, quindi chi non avesse avuto ancora occasione di vederli invito, perché sono nuovi spazi molto belli, quindi vi aspettiamo numerosi. Io vi rubo solo ancora un secondo per ricordarvi il nostro prossimo appuntamento, che è l'appuntamento di lunedì, sempre alle 18, sempre qui al Centro Trevi. Presenteremo un libro di Giuseppe Maiolo dal titolo Genitori 2.0. Quindi chi fosse interessato a questo libro, a questa presentazione, può venire qui, l'ingresso è libero come tutte le nostre iniziative, lunedì proprio alle 18, sempre qui. Io lascio la parola a dottor Obermeier e vi ringrazio ancora per essere venuti qui da noi questa sera, grazie. Grazie Patrick e anche Monica dell'invito, dell'accompagnamento, anche dell'assistenza tecnica, e grazie a voi della vostra presenza. Si sente? Sono molto felice di poter presentare un attimino il tema della memoria pubblica, della public history. In questo contesto, il 24 maggio, che è una giornata particolare, come sappiamo, no? L'entrata dell'Italia in guerra del 15, cioè, poi siamo nel pieno Ramadan, anche quello, e la mia piccola oggi ha compleanno, perciò una sovrapposizione di date storiche. Io mi vorrei, nella breve chiacchierata che adesso faremo, no, e poi apriremo anche ovviamente le vostre osservazioni, presentarvi tre brevi spaccati: cos'è la storia pubblica, la public history, come ormai viene chiamata con un termine generalizzato, anche diffuso, anche internazionale, la situazione italiana poi come in particolare, e quella internazionale. Perciò mi sono permesso nel titolo di parlare della memoria pubblica in provincia di Bolzano e oltre, per non limitarci troppo, diciamo, alla sfera troppo nostrana o troppo vicina. E infine qualche informazione su che cosa succede nella nostra provincia. Ecco questa immagine che in alto mi sono permesso, una foto di Simone Melis, cioè sembra una pietra innocua, lo è ovviamente anche, ma è una un giovane studente che lavora su questo campo, e proprio qualche giorno fa, venuto da me, mi ha fatto vedere una studente della facoltà di design una sovrapposizione o una contrapposizione di immagini, e questa è tratta dalla centrale elettrica a Ponte Gardena, è del 38, cioè, dove una volta c'era sul capitello, no? Cioè, il genio, no? il genio del fascismo, sparito dopo, cioè fatto brillare, no? nel 60, 61. Comunque questa pietra è di quell'entrata, molto scenografica peraltro, no? L'ho messa così tanto per avere un elemento anche grafico. Allora, di che cosa si occupa la public history, no? Cioè, qui mi sono permesso di citare almeno il manuale di Oxford, che è recentissimo, di James Garner e Paula Hamilton, perché sono sempre informazioni dell'ultimo, diciamo, dello stato dell'arte, e introducono questo loro handbook puntando soprattutto al fatto che c'è stato un cambio radicale della storia, ma anche poi nella sua recezione, nella sua percezione, dopo il 90, in sostanza con la fine del Novecento, che, come ben sappiamo, no, con i fatti di Berlino, con diciamo, l'involuzione dei sistemi comunisti, anche tutto ciò ha avuto un effetto di lunga durata, profondo, sul tema della storia stessa nel contesto internazionale. E loro puntano molto, come la qualità anche, diciamo, della storiografia britannica, sul confronto internazionale sui diversi paesi, cioè che è un fenomeno non per esempio tipicamente europeo, ma è diffuso e internazionale, e anche nella storiografia abbiamo una globalizzazione ormai. E infine puntano sul fatto della Cina come grande nuovo componente della storia mondiale, questo Rise of China, che ovviamente non è solo economico, ma anche culturale, anche sociale, ed è un laboratorio anche della storiografia. Cioè, ho preso nota di un bellissimo libro di Chou Hun-su, che è un cinese trapiantato negli Stati Uniti e nell'Università di Pittsburgh. E nel 2012 ha pubblicato un grande volume, un ricco volume, China, A New Cultural History, che proprio è di altissimo livello e fa capire cosa che a noi, diciamo, con la nostra visione spesso eurocentrica, manca, quanto invece, ma lo stesso varrebbe per l'India, no? Dove ci sono dei storici apadurai, no? Cioè la Croce, sono dei storici straordinari, quanto noi siamo un po' troppo legati talvolta anche alla nostra piccola sfera, ormai piccola, no? Per l'Europa è piccola non solo geograficamente, ma anche come ambito culturale e sociale. Serge Noiré, che è Giorgio Mezzahira, cui presenza sono molto felice, e io vedremo fra due settimane a Pisa la conferenza della storia della public history italiana, è un ricercatore attivo a Firenze, cioè a Fiesole, all'Istituto Universitario Europeo, che in Italia appunto, no? Cioè proprio l'istituto, e lui dà questi, diciamo, questi elementi che qualificano la public history, fa un tracciato, diciamo, della loro genesi. L'istituzionalizzazione appunto arriva soprattutto dagli Stati Uniti, fine anni 70, dove un elemento di analitico per capire quanto sia rodato è sempre quando entra nei curricula, cioè nelle proposte delle università. C'è un MA in Public History and Heritage Studies da quel periodo lì, e poi questo questi corsi di studio si sono trasferiti anche, cioè questo transfer continentale, soprattutto attraverso la Gran Bretagna, ma anche attraverso i mezzi mediali come televisivi, la History Channel, ma pensiamo, non so, alla Rai Storia, cioè, sono tutti fenomeni abbastanza recenti, o la UF3, Phoenix, Arte, cioè tutti hanno un ZDF Info, hanno dei canali televisivi dedicati alla storia con dei loro esperti, no? Cioè, sono delle proposte con grande qualità spesso, no? Cioè, ci sono ovviamente poi anche le riserve del tradizionale mondo accademico, che a queste cose non ha sempre reagito in modo molto, perché un po' si è sentito quasi sfodestato e ha dovuto fare i conti, diciamo, e anche denunciando spesso con questo tema dell'uso pubblico della storia, no? Che è un termine che ha usato come primo, mi sembra, Jürgen Habermas nel contesto del famoso Historiker Streit in Germania, cioè come se l'uso pubblico della storia fosse subito un uso politico, ma un uso revisionista in sostanza, questa è l'accusa, e infatti è anche vero per certi versi, ma in questo caso diciamo l'uso pubblico della storia può anche avere un risvolto, come dire, illuminato, no? Cioè questo e a questa a questo prendere, diciamo, forma della storia pubblica hanno contribuito molto i nuovi musei, i centri di documentazione, che hanno a loro volta ridefinito gli oggetti. Uno dei risvolti interessanti sono la nascita del IFPH, l'International Federation for Public History, nel 2009, vedete, sono cose molto recenti, e poi in Italia l'Associazione Italiana di Public History, l'AIPH, che la prima conferenza l'ha fatta nel 2017 a Ravenna, la seconda l'ha fatta 2 settimane a Pisa, sotto il bel titolo Metti la storia al lavoro. Questo è un po' una nuvola di parola, il manifesto della storia pubblica italiana, è di 2 settimane fa, mi sembra del 7 maggio, hanno un bel sito anche dove un blog anche dove è molto bello, perché a parte, diciamo, la conformazione estetica, riunisce in un unico quadro i concetti chiave di quello dell'incontro, diciamo, fa una ricerca solida, puntuale, e il tentativo anche di valorizzare pubblicamente questi saperi, diciamo, di creare dei ponti fra il mondo accademico e la comunicazione dei saperi, anche la partecipazione, ovviamente, di ampi strati della società, e anche l'impegno civile, cioè far capire che la storia non è semplicemente la ricerca storica, non può mai limitarsi a un mero discorso accademico o di pura ricerca, che è pur fondamentale, ma deve anche fare i conti, o deve cercare di rapportarsi anche a dei contesti che cambiano, cioè territoriali, ovviamente nazionali, internazionali. Il manifesto del appunto recentissimo del AIPH, e questa è la definizione che viene data, e parlo di public historian, cioè dello storico pubblico, cioè che si dà che approfondisce gli aspetti pubblici della storia. È imprescindibile considerare i pubblici specialisti e non, cioè vediamo che c'è questo tentativo anche di abbattere queste barriere, no, sacrosante, che troppo a lungo hanno fatto da spartiacque, sia come interlocutori privilegiati, come protagonisti di originali pratiche di ricerca, cioè anche la qualità della ricerca ovviamente rimane, restituendo un ruolo centrale alle storie, cioè la storia nell'interpretazione della società contemporanea, cioè riportare un attimino il discorso accademico all'interpretazione del nostro contesto nel quale viviamo e che in qualche modo cambia con noi, ma anche noi abbiamo qualche possibilità di cambiarlo. Ce lo ritroviamo ovviamente non citando Marx, però abbiamo delle modifiche, cioè non è che nasciamo in un contesto neutro, non è una tabula rasa, ma abbiamo degli strumenti per modificarlo. Nella seconda parte vorrei un attimino vedere lo spazio pubblico italiano e internazionale come zona di, diciamo, delle guerre della memoria, cioè gli spazi li considererei non conclusi, dove abbiamo degli elementi che proprio con l'esperienza bolzanina e altoatesina possiamo comprendere meglio. Questa foto a sinistra che mi ha spedito un amico di Heidelberg che ha fatto il suo viaggio di nozze a Napoli, e sono le regge poste a Napoli, edificio straordinario che a destra vedete, questo è uno dei massimi edifici del razionalismo monumentalista italiano del 36 di Giuseppe Vaccaro e Gino Franzi, con questo bicromatismo anche delle facciate, no? Questo chiaro scuro è scritto su in alto come se nulla fosse cambiato, no? come se fossimo ancora nel 36, anno 1936, 14, che era fascista, beh, è anche scritto e punto fascista, e il tutto, diciamo, attorniato con un po' di disordine urbano, ma diciamo lo troviamo anche a Bolzano, no? Però è particolare, no? C'è questa come se si fosse fermato il tempo. Qui mi rifaccio due esempi che sono più noti, mentre l'altro quasi è anonimo, no? Ma a sinistra è salito alle cronache, no? C'è il famoso monolite, l'obelisco Mussolini nel foro, vicino al foro italico, dinanzi alla sede centrale del CONI, che era già la sede dell'educazione fascista maschile, e anche il monumento stesso è molto maschile, diciamo, è proprio un tipico di questi. Cioè è il fallo, diciamo, fascista per certi versi. Con Mussolini Dux, se vi ricordate, nel 2015, nel settantesimo della liberazione, dei gruppi partigiani hanno protestato pubblicamente con la loro presidente della Camera Boldrini, no? I discorsi che gli si tengono, ma diciamo va tutto bene, però questo bisognerebbe abbatterlo, perché lei dice, Boldrini, beh, togliamo almeno la scritta, no? E poi apre di cielo, no? C'è stato un è stata attaccata e non è successo nulla, no? No, è sempre lì tale quale. Idem a destra, il famoso Palazzo della Civiltà Italiana, il Colosseo Quadrato, come dicono a Roma, non è in quello che fosse l'insieme più monumentale dell'architettura fascista, che l'EO, cioè l'ex EO, cioè Esposizione Universale di Roma, prevista per il 1942, nel ventennale del fascismo, e tutto un quartiere a sud di Roma con edifici di straordinaria qualità estetica, peraltro. E qui abbiamo i due dioscuri a sinistra e a destra, atti sia a contenere il cavallo, ma anche a fare il saluto romano. Cioè, sono super impegnati. È la scenografia di tanti film, peraltro. E di Ernesto Bruno La Padula, l'edificio, no? Cioè, e di Giovanni Guerini e Mario Romano, tre architetti. Peraltro molto interessante, perché ci fa capire quanto questa forza di astrazione che insita in questi, perché la qualità estetica è altissima di questi edifici, anche dell'obelisco, la scalinata, sono elementi, diciamo, sono architetture molto astratte e anche racchiudono alla perfezione questo pathos, anche questo del dittatoriale nella loro, diciamo, e ti fanno sentire piccolo, no? Questo è anche un po' il senso di queste architetture. L'uomo qui, soprattutto a destra, si vede, no? Cioè, se immaginiamo la figura che sale, è piccolo, è una formica in sostanza, no? Dinanzi a queste, come diceva Albert Speer, no? I nostri monumenti familiari devono essere proprio le rovine come lo sono oggi le piramidi egitte, no? Cioè, i tempi a venire ci riconosceranno la nostra grandezza del nazionalsocialismo, del fascismo, da quello che saranno famiglie anni queste rovine, no? Cioè, proprio pathos, no? Dittatoriale. E poi vediamo fenomeni più recenti, lo chiamo ricolonizzato, anche se ho messo assieme due elementi di per sé distinti, perché il famoso boschetto, la pineta Dux, sul Monte Giano, c'è cioè zona di Rieti, visibile da Roma quando è stato piantato nel 39, mentre il mausoleo al maresciallo Graziani, il macellaio dell'Africa, come qualcuno l'ha chiamato, nel suo borgo natale, ad Affile, è di recentissima costruzione. Nel frattempo però è anche stato condannato il sindaco, no, per apologia del fascismo. Peraltro è una brutta costruzione, devo dire, no? C'è sempre un cesso, ma scusate, no, la parola, no? Ma comunque il boschetto a sinistra che poi è bruciato due anni fa, no? Forse sicuramente in modo doloroso, è stato da una giunta di estrema destra, come anche alla fine è stato ripiantato, no? Cioè, è stato un omaggio al Duce del 39, che comunque tuttora esiste. E esempi più molto più recenti ancora, cioè siamo nell'immediato presente, cioè questa è la nuova, io non, cioè, il bello oggi con internet, cioè non è che ci sono stato, non è che ho fatto grandi viaggi adesso di studio, anche se sarebbe bello farli. Che questo è a Bruxelles, House of European History, è recentissimo, ma anche espressione di una volontà della comunità europea di raccontare la sua storia. Pertanto, dal punto di vista dello storico, è anche per certi versi un tentativo un po' problematico, no? Cioè, se l'Europa. Comunque il tentativo di invogliare i cittadini europei della loro storia con un volontarismo europeo di farne un soggetto della storia importante. Anche architettonicamente, no, su questo edificio dell'Art Deco hanno sopraelevato tutta una zona, tutto un cubo architettonicamente molto molto interessante. Ci sono altri esempi, questo per esempio a mio avviso è molto più autentico, forse anche lì non ci sono stato, devo confessare, no? Ma a Versailles, il Polen, il museo della storia degli ebrei polacchi, che già all'interno è del 2013, all'interno presenta questa volutamente questa spaccatura architettonica come grande ferita. È un museo molto coraggioso in una Polonia che, come ben sappiamo, è virata molto a destra e che adesso all'interno del suo corpo statuale alcuni musei i cui tentativi vengono dal stesso governo avversati quasi. È un edificio anche da fuori molto bello, è stato aperto nel 13, nel settantennale della rivolta nel ghetto di Varsavia, cioè la prima rivolta, quella della popolazione ebraica dell'aprile maggio 43, brutalmente poi terminata dalla Wehrmacht, ricordate tutto il Marek Edelman, no? Cioè uno dei comandanti del ghetto di Varsavia, uno dei grandi eroi, diciamo, della storia europea, direi, che è morto nel 2009, mi sembra, no? Cioè è riuscito a... poi è diventato cardiologo, uno dei grandi personaggi del Novecento mondiale, direi. Ma qui vediamo nel 13, 70 anni dal ghetto Aufstand di Warschau, di Varsavia. Cioè spesso questi giubilei sono la spinta iniziale o fanno in qualche modo da motivo propulsivo quasi, no? dal quale scaturisce un'iniziativa museale. Possono essere utilizzati, caricati anche di questa funzione. Qui usciamo dal territorio continentale attraverso l'Irlanda, il GPO Dublin, anche questo recentissimo del 2016. Il GPO è il General Post Office di Dublino, dove nel 16 c'era la rivolta, no, di Pasqua, la Easter Rise, no, la rivolta contro la dominazione britannica, con una reazione fortissima poi britannica, no? Però da cui nasce l'indipendenza dell'Irlanda, la nasce nel 22, Collins come nome, diciamo, di riferimento. E all'interno del post office, cioè della centrale delle regge poste, diciamo, di Dublino, hanno fatto una mostra, ma non enfatica, no? cioè non già troppo, almeno dai testi che si trovano in rete, cioè, soprattutto interessante perché propongono dei giochi di ruolo, no? fa visitatore e cioè, non è il classico museo frontale, ma c'è un approccio molto interattivo tipico del mondo britannico o comunque del mondo diciamo anglosassone e irlandese, dove c'è molto coinvolgimento dei visitatori, dai bambini in su, ma soprattutto vorrei farvi notare, cioè, questo altro edificio molto bello a Washington DC, il National Museum of African American History and Culture, anche questo del 2016, fa parte del Smithsonian, che è uno dei forse più grandi musei del mondo, perché raccoglie un sacco di librerie, di musei, di archivi. È sulla National Mall, che anche lì, insomma, è stato negli Stati Uniti, sarebbe davvero il caso di vederlo prima o poi, perché c'è questa National Mall, questo miglio dei musei, è l'ultimo anello di una catena di istituti culturali e forse uno dei, anche architettonicamente ma anche tematicamente, più interessanti, perché soprattutto si rifà al capitolo molto buio della schiavitù, cioè delle popolazioni afroamericane in America, come sono venute in America, in quali condizioni, cioè, fa tutto il percorso dall'arrivo delle popolazioni soggiogate dall'Africa e per arrivare fino ad Obama, in sostanza, che nel 2016 l'ha inaugurato, no? Il primo presidente di colore, ma soprattutto puntando molto sul tema dei diritti civili, delle lotte degli anni 60. 50-60, Martin Luther King. E anche l'edificio è molto bello perché ricalca un capitello, cioè a forma di capitello, ma è un capitello di uno dei popoli schiavizzati, dei Yoruba, che è un popolo della Nigeria, cioè una provincia della Nigeria attorno al Lagos, che è uno dei gruppi più, diciamo, che hanno un'altra percentuale di loro è stata schiavizzata dal 6-7-800. Ha vinto un premio di design, il Beasley Design of the Year Award del 2017, con dei grandi premi di Londra, internazionale, ma dato a Londra. E bisogna aggiungere il fatto che negli Stati Uniti tutte le comunità, tutte le comunità etniche hanno, per così dire, diritto a un museo, no? C'è anche una politica degli Stati Uniti di diciamo quasi una separazione delle memorie, dare a ogni gruppo un suo museo, che fosse un elemento anche da tenere presente. Infine, un elemento più vicino di Barcellona, il Elborn, che è un vecchio quartiere di Barcellona, sono il grande mercato pubblico di Barcellona, dove è nato nel 2014, l'11 settembre, la data è particolare, l'11 settembre del 2014, il Centre de Cultura in Memoria, che consiste in sostanza la vecchia, vedete la struttura che è ancora la vecchia, sono la capanna dei mercati, dei grandi mercati del sabato di Barcellona, dove è stato scavato negli anni prima del 14, hanno trovato i resti della Barcellona medievale e prima età moderna, e hanno fatto un enorme museo archeologico in situ, ricostruendo questa vecchia Barcellona, che risale al periodo prima del 11 settembre del 1714, cioè 300 anni prima, che era l'ultimo giorno di indipendenza catalana, o la Catalogna viene in seguito alla guerra di successione spagnola, una delle più brutali guerre europee, no? Quasi una guerra mondiale europea nel primo Settecento, fu poi persa l'indipendenza, fu inglobata nella Spagna, nella corona, e pertanto per tanti catalani, o per la memoria pubblica catalana, è considerata un giorno di lutto, e qui l'archeologia urbana veniva volutamente utilizzata nel 2014 quasi come elemento di riscatto. Cioè è un museo altamente pur bello, ma altamente problematico da quel punto di vista, e ovviamente è in stretto contatto con delle spinte secessioniste, poi con quello che è successo nei due anni addietro. Cioè faceva parte di questo, poi sapete tutti, no? Barcellona, no? La squadra di calcio, no? che tradizionalmente, no? Fa parte di questa di questo secessionismo, si vede come qui i temi storici vengono attivati per una funzione attualizzata, pur con degli elementi di tutto rispetto, no? Allora, la situazione internazionale, solo per concludere questo secondo capitolo e arrivare al mio ultimo, alla situazione locale. Abbiamo allora visto che la public history è presente nei musei, nelle istituzioni pubbliche che in qualche modo la trasportano, tutti di recente data, con duplici intenti. Abbiamo, e qui mi rifaccio al bel termine coniato da Jörn Rüsen, che è uno dei grandi teorici del dibattito recente in Germania, Sinnbildung durch Zeiterfahrung, cioè le costruzioni di memorie nazionali o regionali attraverso un approccio temporale a delle date storiche importanti, elementi seppur illuminati, no? Perché non sono fatti con condizioni di caso, sono ben fatti, non c'è nulla da dire da quel punto di vista. Il House of the Open History è il buon, ma presentano, presentano però delle problematicità, perché sono anche, hanno anche questo tentativo di costruire una visione storica, una narrazione storica che viene offerta come nuovi miti o continentali o regionali o nazionali. Offrono un ampio spunto poi al dibattito e anche da quel punto di vista sono molto, molto validi. Mentre un approccio più analitico e decostruttivo, che diciamo decostruttivo nel senso la storiografia più recente predilige in sostanza un approccio che cerca di analizzare e di costruire dei miti e non di crearne dei nuovi, li troviamo a mio avviso per esempio a Dublino nel Post Office, in questa storia dell'indipendenza irlandese, ma non letta in chiave revanchista, e soprattutto nel Centro Europeo Solidarność a Danzica, che è un elemento molto bello. Non ho portato la foto purtroppo, ma è uno dei musei più interessanti, anche vinto dei premi internazionali, ed è molto avversato anche dal stesso governo polacco di destra ormai, perché racconta la storia polacca diciamo con certi toni che non piace ai fratelli Kaczynski, diciamo l'unico fratello rimasto Kaczynski, e comunque la sua compagine, perché per esempio la critica aperta che è stata fatta nei media polacchi potrebbe essere più antitedesco, per esempio, no? Cioè, vediamo che tutti, ovviamente sappiamo tutti quanto la Polonia ha sofferto, no? da parte delle aggressioni tedesche, ma ovviamente un discorso museale o di memoria pubblica deve essere diverso, deve essere analitico, deve anche rapportarsi alle proprie colpe, no? E qui siccome il Centro Europeo Solidarność è fatto molto bene e comprende non solo la storia del movimento sindacale, ma anche di quello che tutto quello che veniva prima, è un po' avversato anche dai gruppi, dalle elite politici polacche attuali. L'ultima parte la vorrei dedicare appunto agli esempi più vicini, agli esempi nostri, un breve spaccato soprattutto degli anni recenti, nei quali si è mosso molto a mio avviso, e l'ho chiamato un po', diciamo, tra Ozi, attentati, grande guerra e monumenti fascisti, perché i temi storici sono, ovviamente siamo nel 2018, allora la prima guerra mondiale, no? Ma ogni anno rappresenta degli spunti abbastanza felici e comunque interessanti per una riflessione storica, citando qui il famoso detto di Benedetto Croce, no? Ciò che è vivo e ciò che è morto della filosofia di Hegel, cioè ciò che è vivo e ciò che è morto della storia, direi, no? Cioè, perché i temi storici, nel modo nel quale vengono trattati o risuscitati, vediamo subito anche in qual è la chiave di lettura, qual è la funzione che gli si dà, qual è la sterzata, appunto, per tornare alla parola d'inizio, l'uso e l'abuso, no, dei temi storici che se ne fa. Mi sono permesso di mettere perché c'è stato proprio due settimane fa a Brunico questo dibattito che ho potuto con Maurizio Ferrandi, no? Perché ha detto delle cose molto belle. Abbiamo avuto il dibattito sul monumento alpino di Brunico nella piazza, in una piazza centrale di Brunico, la piazza per antonomasia, no? che il fascismo voleva fare a Brunico, cioè era la piazza del 9 maggio peraltro, e oggi piazza Cappuccini, tanto nella vulgata popolare è sempre chiamato Kapuzina Waschl, diciamo, che è Sebastiano, no? Cioè, in lingua tedesca, era un spregio, era spregevole, non una espressione spregevole, ormai è quasi un vegetativo in Bunico, perché è stato in quel dibattito un ricercatore di Bunico ha presentato una sua ricerca degli ultimi due anni, dove ha chiesto ai bunicensi ma cosa pensate, cioè il più di 50% erano fermamente pro, indipendentemente dalla appartenenza linguistica, la quota non si discostava tanto dalla appartenenza linguistica, cioè ormai hanno fatto la pace con questo movimento che è stato fatto brillare due volte, questo è lo status odierno dovuto all'ultimo attentato del 79, peraltro l'11 settembre, sembra quasi sempre l'11 settembre, perché c'è la tabella su, sono andato lì a controllare, cioè, qui si fa riferimento all'11 settembre del 79, l'ultimo, mentre gli altri, cioè, il primo alpino molto più col fucile del 38 dedicato che poi nel 43 è stato, dopo l'8 settembre 43 è stato buttato giù, e a differenza del momento della vittoria non è stato, e nel 61 è stato rimesso una seconda statua più, diciamo, meno aggressiva ma sempre molto maschilista in ogni caso, che a sua volta è stata fatta saltare nel 66, cioè ci sono tre istruzioni, ma lo status attuale è perciò ma bomba non bomba, no? Cioè Vendetti 78 siamo lì, no? Cioè, manca l'analisi, poi non ce l'elemento, cioè la l'elemento più bella frase della manca l'elemento e poi non c'è, ma manca l'analisi e poi non c'è l'elemento, non c'è, questo è un bellissimo refrain. Che peraltro si rifà al terrorismo italiano di cui sia di destra sia di sinistra, cioè Brigate Rosse dei gruppi neofascisti, cioè degli anni di piombo italiani, ma potrebbe valere anche per le nostre lande e per l'alpino fatto saltare, eccetera. Però il fatto che sia lì così in questo modo, a mio avviso, è un bellissimo esempio di come la società civile in qualche modo, e la ricerca che ho appena citato ne la conferma, abbia fatto, si sia rapportato, non lo considera ormai un suo patrimonio anche, e qui quello che a me diciamo salta l'occhio è come dire, come qui la doppia ferita sia in qualche modo integrata nello status del monumento oggi, perché l'alpino distrutto ma a sua volta resuscitato, è come se sprofondasse in questo blocco, no? Cioè come se fosse in un bagnomaria per certi versi, o in queste sabbie mobili, ma in qualche modo è ancora leggibile, no? il tentativo originale della statua, quello di essere una figura di limes in sostanza, no? un gatekeeper, quello che guardingo della frontiera, no? Sguardo verso nord, e anche la sua distruzione, no? Cioè, per certi versi, è un esempio, lì poi sappiamo che nel 2012 ci sono messi anche dei cartelli che sono un po' lontani, l'operazione esteticamente forse perfezionabile, ma comunque è un elemento molto interessante. Ötzi, mi scuso di questi sarti anche un po' perché qui siamo nella fine dell'età del bronzo, però Ötzi non lo considero come Ötzi ma come elemento simbolico della storia pubblica sudtirolese altoatesina, perché è assunto dal suo ritrovamento del 91, ma soprattutto con la costruzione del nuovo museo nel centro di Bolzano, cioè non la costruzione ma la riadattazione dell'ex Banca Austro-Ungarica, poi Banca d'Italia, e come un grande cheque, diciamo un grande assegno che è stato messo lì, cioè nella banca, in questo edificio di banca, per creare un'icona, cioè anche qui è un elemento di questo brave new Sudtirolo. I 20 anni, no? 5 milioni di visitatori, no? la dicono lunga, no? E attorno ha creato tutto un po' una ricerca, un ampissimo ricerca molto molto bella, ma anche lì molto bella questa diciamo l'elemento iconografico. E qui siamo a mio avviso a cavallo, diciamo, fa una costruzione di un'identità regionale attraverso questo fortuito ritrovamento, ma il suo utilizzo, come dire, sì, in chiave anche regionalistica, è un prisma dove confluiscono degli elementi di ricerca, pertanto l'immagine destra, no? Cioè, sapete che è nato addirittura un istituto delle mummie, no? che è una risonanza abbastanza internazionale. Il Landesmuseum, cioè il museo provinciale per eccellenza, ovviamente il Castel Tirolo, che è che si chiama ufficialmente, cioè museo storico culturale della provincia di Bolzano, Landesmuseum für Kultur und Landesgeschichte. E anche lì ovviamente c'è un elemento identitario molto forte, no? Perché se questo castello in qualche modo ha dato il nome a tutta una regione, non può che essere una sorta di castello di Amleto, no? Cioè di una Versailles, per così dire, rurale o alpina. Però al suo interno racchiude anche la finora, una delle poche se non l'unica, tentativo di raccontare della Torre della Memoria nel mastio, no? Cioè la storia della provincia di Bolzano nel Novecento, su queste scale che salgono, in una costruzione anche molto bella di Walter Angonese, rifatta peraltro negli anni addietro da un gruppo di storici, anche Giorgio mi sembra faceva parte, di Hans Heiss, di Paolucci, no? Di Polazzi, di Innsbruck. L'unico problema forse è, diciamo, la dislocazione, perché poi chi ci va, no? Fino a Castel Tirolo. Però come è stata una prevista molto importante, perché è ancora dei primi anni, mi sembra dopo il 2000, anche prima, e però adesso rifatto, cioè leggermente rimodellato, e con un bellissimo catalogo operato. Lo cito anche perché, diciamo, per far vedere altri esempi, questo è recentissimo, siamo del 10 maggio del 2018, e non l'ho ancora visto, devo dire, ma sono molto interessato a vederlo. Non ho ben capito se è una mostra permanente, cioè, perché è ben stata chiamata Dauerausstellung, è vicinissimo al sud di Portici 9, negli spazi della Südtiroler Freiheit, cioè di un partito politico, e col titolo abbastanza apologetico, Opfer für die Freiheit, vittime per la libertà, BAS, cioè Befreiungsausschuss Südtirol, e con un dichiarato intento che è raccolto in queste parole, che sono non parole mie: ohne die Aktionen der Freiheitskämpfer hätte es wohl nie eine Autonomie für Südtirol gegeben und Südtirol wäre wohl kurz oder lang zu einer italienischen Provinz verkommen. Beh, a parte che Südtirol è una italienische Provinz a tutti gli effetti, no? Diciamo, cioè, qui si capisce che l'esposizione è molto, cioè, sì, come dire, è la costruzione di una narrazione che vuole rivalutare con i mezzi storici, museali, con dei pezzi anche espositivi, oggetti sicuramente interessanti, cioè offriva una contonazione degli anni, degli fine anni 50, primi anni 60 e oltre, cioè del periodo del terrorismo sul tirolese, che ha avuto i suoi motivi, no? Cioè, la storia bisogna sempre anche vedere i motivi degli attori di allora, che però qui per esempio come termine non compare neanche, no? Il termine terrorismo in questa mostra né nel titolo né nel testo non compare, no? Cioè allora fatti di bombe, esplosioni non possono che essere qualificati come terrorismo, non è già una valutazione ma uno stato di fatto, no? Cioè con sia contro cose sia contro persone è semplicemente terrorismo. Tra l'altro i proponitori, gli organizzatori sono l'Andreas Hofer Bund Tirol, che è stato rifondato nel 1994 a Innsbruck, è sito Lima, il Ponte Bolzano. Ma l'Andreas Hofer Bund Tirol rifondato, che è stato soppresso dal nazismo nel 1938 dopo l'Anschluss, però a sua volta è nato proprio, mi sono informato, cioè il 9, in caso San, 9 maggio, che il 10 maggio è inaugurato, è stato sicuramente un caso, 9 maggio del 1905 a Innsbruck, come associazione molto nazionale, Deutsche National, Völkisch, pangermanista, e che nel 18, e qui siamo davvero a 100 anni, e questo era proprio nel maggio del 18, ha tenuto il famigerato Scherzinger Volkstag, cioè nel 100 anni fa, la dieta di Vipiteno, dove hanno durissimo, dove hanno chiesto, no, cioè, la germanizzazione del Trentino, no, cioè un'offensiva, cioè è uno di, all'interno della guerra, uno dei momenti più esaltati, diciamo, del nazionalismo austro-tedesco in salsa tirolese. E a questo Andreas Hofer-Bund di allora, cioè questo di oggi è la sua continuazione fisiologica. E peraltro adesso vediamo, questo non può mancare nel Heiliges Land Tirol, l'innovazione da parte di un francescano, no? Sì. Come, non so che padre sia, padre Hastina? Padre Guido è francescano di Bolzano, gardenese. Allora è una mostra santa, no? C'è la guerra, è stato un terrorista, cioè una guerra santa, no? Infine, adesso brevemente, perché lo sapete, non voglio neanche troppo parlare, ma diciamo quello che abbiamo visto su Castel Tirolo, ovviamente in qualche modo l'autore del Moe adesso ha avuto anche una sua, negli ultimi anni, una sua risvolta a Bolzano, in due dei punti importanti, caldi, da tanti anni caldi, ma anche freddi, se così vogliamo, di Bolzano, sia il momento della vittoria che... però qui vorrei soprattutto sottolineare un fatto, che questa iniziativa museale al momento della vittoria ha avuto come cioè la risonanza e il ricollegamento alle esperienze europee che abbiamo visto prima, cioè essendo lì stato dato questa riconoscimento europeo, il Museum of the Year ha avuto nel 2016 una speciale menzione che dice testualmente che questo era il verdetto della giuria, the exhibition, cioè questo bizetta 1845, un monumento una città due dittature, reintegra un monumento controverso all'interno, diciamo, del corpo sociale nel quale esiste e nel quale era in qualche modo da quale non era lontano, no? Come tutti noi sappiamo, e che così da troppo tempo ha servito da punto focale per tutte queste lotte identitarie, controidentitarie, no? Della destra italiana, della destra tedesca, peraltro sono sparite, no? dal 2014 in poi, cioè almeno da questi grandi cortei. ma anche come contributo c'è in una chiacchiera europea, no, di cioè, quasi un po' patetico, no, di to promote humanism, tolerance and democracy. Vabbè, e comunque il secondo risvolto, cioè quello in piazza Tribunale, che non poteva esserci stato senza il monumento alla vittoria nella sua estensione e anche conseguenza logica, che qui chiamo il duce della filosofia, cioè il credere, obbedire e combattere, innanzitutto non diventasse un credere, obbedire e abbattere, ma che diciamo c'è stato il contraddittorio di nuovo, no? Cioè, è rimasto in situ come il più grande fregio fascista tuttora esistente e forse il più grande fregio a cielo aperto, a prescindere da chi l'ha prodotto in Europa, ma è visibile, tuttora visibile, ma c'è la controcitazione di Hannah Arendt, una delle vittime del nazismo e una delle attrici che più profondamente ha analizzato il fenomeno del totalitarismo. Questo è riferito al giorno dell'inaugurazione del novembre del 2017. E infine, come ultima slide, quello a venire, mi permetto di riferire, perché fa parte anche del mio attuale impegno lavorativo, quello di forse la più grande fortezza o edificio militare all'interno dell'arco alpino, la Franzensfeste, che già ha degli elementi presenti come l'infopoint sul tunnel di base del Brennero, e già ha servito come luogo per tante mostre e attualmente serve anche per luogo di mostre, ma è un punto particolare, diciamo, del nostro territorio, molto europeo se così vogliamo, perché è il crocevia di linee di comunicazione, no? Tutti passano dentro o sopra l'autostrada, la ferrovia, il tunnel, cioè che è uno dei, forse un'opera monumentale a sua volta, e poi ovviamente è un'opera degli anni 30 dell'Ottocento, abbastanza assurda, no? Perché mai è stata attaccata, mai è stata difesa, non è stato mai sparato un colpo da lì, la direzione dei canoni che una volta c'erano erano rivolte verso sud, era l'ultima spiaggia austriaca che era passata così, quando come conseguenza degli attacchi napoleonici prima, no? Napoleone nel 1797 e poi gli italiani con il risorgimento, ma vengono dopo, ma comunque i moti già c'erano, essere come l'ultimo baluardo, no? Se tutte le dighe in qualche modo, e peraltro c'è anche una diga qui del 38, non del 40, la diga, cioè è un luogo carico, e il ponte che del ferro si vede, è un luogo carico di significati, di importanza, e può essere ripopolato in qualche modo con elementi storici, con una nuova cartografia del regionale. Io mi fermerei qui, vi ringrazio e magari se ci sono delle domande sono a vostra disposizione. Inaugurato nel 98. Sì. E poi 10 anni fungeva come la mostra della preistoria dell'Alto Adige fino alla prima età medievale, fino a Carlo Magno, e poi decise di diventare un museo globale con la mummia al centro e soltanto il età del rame con tutti i suoi reperti che fanno parte di questo corredo sensazionalistico. Ho lavorato lì 5 anni, conosco bene anche le reazioni delle persone e so anche che non soltanto adesivi ma anche i turisti si sono sentiti privati di tutta questa storia del mesolitico, neolitico, poi età del rame c'è, ci manca il bronzo, ci manca il ferro, ci mancano i romani, ci mancano i bagliuvari, ci mancano i gotici, eccetera, i longobardi. Perché l'argomento è stato quello, non interessa al grande pubblico, a quello mondiale, ma interessa soltanto a questi 5 gatti dell'Alto Adige. Però noi non abbiamo un altro museo che ci documenta in questo senso, e poi vorremmo anche fare vedere a tutti quelli che vengono a trovarci cosa siamo stati o da cosa veniamo fuori. Non è soltanto la mummia a essere il nostro punto di focalizzazione o di identificazione, tra l'altro un oggetto di marketing di massa, ma non più di analisi storica identitaria. Perciò avrei questa funzione un po' più. Ma l'osservazione è giustissima, no? Cioè, però l'aspetto identitario c'è comunque tutto, no? Quando c'è stata questa riduzione, cioè questa su se stesso come protagonista, come prima donna del museo, e gli altri aspetti, ma anche per motivi di spazio, immagino, sono stati tolti. Ci manca, però, questo è vero, tutto il racconto storiografico, ma non lo troviamo neanche a Castel Tirolo, che anche a sua volta era pensato come storia, per museo di storia regionale, provinciale, che contempli, diciamo, anche tutti questi strati storici precedenti. Il civico versa nello stato che ben sappiamo, perché il museo civico di Bolzano avrebbe avuto questa, aveva sempre questa funzione di raccontare un po' il lungo periodo, la long durée, ma è vero che c'è questo vuoto, no? di un racconto storico organico che non è un racconto storico che io personalmente prediligo, no? Cioè quello da Adamo ed Eva fino da Plato a Nato, per così dire, no? Come si diceva una volta. Però questa mancanza c'è, questo mio. Monica. Bene, salutiamo Hannes Obermeier e tutti voi, grazie per essere intervenuti. Buona serata. Grazie.